eccoci qui, buonasera a tutti da Gilles Facchinelli, dai microfoni di Radio Cooperativa. Come sentite in sottofondo non è la solita base musicale, è una sigla un po' particolare che mi introduce con un ospite molto particolare. Buonasera e ben ritrovati quindi alla quinta puntata di Rock Wave Live, io mi racconto, come dicevo, una puntata speciale, con un ospite speciale. Sono onoratissimo e felicissimo di dare voce ad un artista che sta dando molto alla musica italiana. Quindi do il benvenuto al produttore discografico, arrangiatore, chitarrista Marco Barusso. Pronto Marco? Pronto, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ciao Marco, che, ciao. Che introduzione, mi vergogno quasi. No, sì, ci mancherebbe perché adesso ne parleremo quando io dico che stai dando ancora tuttora tantissimo alla musica italiana, so benissimo di cosa sto parlando, quindi va il merito veramente di averti presentato così. Ok, mi fido. Allora Marco, entriamo un po' nel vivo e iniziamo a conoscerti un po'. Intanto ho parlato di produttore musicale, arrangiatore, chitarrista. Qual è la cosa che vale un po' più dell'altra? O siamo tutti allo stesso livello? No, non sono tutti allo stesso livello, nel senso che ce ne sono alcuni che faccio meglio dell'altro che faccio peggio, chiaramente. Ovvio che sono partito da ragazzino a suonare la chitarra come chitarrista e poi pian piano ho studiato e visto l'interesse per un po' come i bambini che smontano i giocattoli per capire come sono fatti, io con la musica più o meno ho voluto fare la stessa cosa, quindi cercare di capire come venivano fatti i dischi, cercare di capire come venivano creati certi suoni, quindi ho studiato questo. Come si fa la musica e come si creano i suoni, cioè, quindi ho studiato musica come musicista e ho studiato anche la tecnica del suono per poi arrivare a potere, no, come obiettivo finale il fatto di riuscire a produrre io musica mia e musica altrui cercando di fare meglio, ecco. Certo. Tra l'altro quindi il produttore è un pochino l'obiettivo finale. Certo, ma ti chiedo una cosa Marco, intanto vi dico che la musica, la base che sentite è di Marco Barusso. Volevo chiederti anche una cosa Marco, a proposito di produzione eccetera, quali sono le figure indispensabili per creare e realizzare un album di qualità? I pezzi, canzoni belle. Sì, ma intendevo dire, cioè, le figure, tante volte pensiamo, il cantante visto sì, canta, in pratica è lui l'interprete, è sua la canzone, ma non è sempre così. Ci vogliono diverse cose, ci vuole, chiaramente sì, come dicevo, si parte dalla canzone, però questa canzone sarà stata scritta da qualcuno, quindi è importante l'autore, è importante chi la interpreta, è importante chi la suona, è importante chi la arrangia ed è importante chi tesse le fila di tutto, cioè certo, che tiene insieme tutto, che tiene insieme il progetto e che dà poi alla fine l'impostazione globale a tutto, che ha la visione globale. Certo. Una persona che ha la visione dovrebbe avere teoricamente la visione globale di tutto è il produttore. Certo. Che produttore è... che arrangia è il produttore, c'è l'autore, l'interprete, ci sono i musicisti, eccetera. Ecco, diciamo che produttore e arrangiatore non è la stessa cosa, no Marco? No, produttore e arrangiatore non sempre è la stessa cosa. Ci sono dei famosissimi produttori che non arrangiano una nota, però ci sono dei fiori arrangiatori che se lasciati liberi fanno danni, perché l'obiettivo finale del produttore è quello migliore per l'artista. Certo. No? Quindi a riuscire a confezionare un prodotto che sia il prodotto migliore possibile per quell'artista in quell'anno, in quel periodo storico, eccetera. Tendenzialmente sarebbe bello che chi si occupa di arrangiare un disco, di porlo, sappia quale chi arrangia, chi produce, sappia quale ruolo sta ricoprendo, capisci? Certo, è importantissimo questo. Allora Marco, abbiamo spiegato un po' in linea in generale, adesso andiamo un po' iniziamo ad andare più in profondità prima di parlare del tuo progetto musicale. Io nel promo in Facebook ti ho presentato come passato e presente di grandi produzioni e collaborazioni musicali. Ne vogliamo parlare? Non so, io ho lavorato con tanti anni, sono più di 20 anni che faccio questo mestiere, quindi non saprei farti un nome sugli altri, dillo tu, cioè io ne dico qualcuno, ne dico ad esempio i Pooh, sì. Dico ad esempio Roby Facchinetti, che dopo ne parleremo, di Riccardo Fogli, ma tanti altri ancora, sono talmente tanti che tutti adesso non me li ricordo. Sì, i Modà, Neck. Bravissimo, Modà, Neck. Sì. Laura Pausini hai collaborato anche. Con Pausini sì, più che altro come fonico per alcune registrazioni. Certo. Per queste cose qui. I Coldplay che mi viene in mente anche. I Coldplay anche lì come fonico, sì, ho mixato un loro live, ho mixato un loro live che è andato nel loro concerto di Mestre. Volevo un attimo parlare anche della tua grande anima rock, che viene un po' anche dalla tua, sei stato con due band importanti dal 2002 al 2010, dal 2006 al 2014. Anima rock che ti porti anche in questo progetto che tra pochissimo andremo a presentare. Vogliamo parlare di questi due gruppi? Ma sì, io anni fa, intorno al 2000, sì, al 2000 ho conosciuto una persona che è Danny Pernell, che è stato un artista degli UFO, è stato anche un autore, ha scritto pezzi per Sade, per Nick Mason, per Floyd, per un po' di gente, e insieme a lui abbiamo deciso di fare un suo disco, di lavorare un suo disco solista. Fatto il suo disco solista, Danny ha pensato di ricontattare i suoi vecchi amici della band che si chiamava Heavy Metal Kids, e ho prodotto il loro album, e poi è finita che da produrre l'album sono finito a suonare anche insieme a loro sul disco e in tour. Sono stati insieme quasi 8 anni. Certo. Insieme a loro abbiamo suonato molto all'estero, in Inghilterra, eccetera. Qui stiamo parlando che sei proprio andato con un gruppo inglese, giusto? Sei andato proprio fuori dell'Italia, quindi. Sì, sì, prevalentemente mi sono andato in Inghilterra, in Nord Europa, in Svezia, Finlandia, posti così, eccetera. E poi dopo finita questa avventura qua, insieme a Claudio Leo, ex chitarrista di Acuna Coil, insieme ho deciso di mettere insieme una band che poi sono diventati, e con i quali ho fatto un album, diversi tour, eccetera, e dai quali sono uscito nel 2014 perché c'erano, come dire, diversi punti di vista fra intendere la musica e... Certo. Allora, Marco, io vorrei presentare il tuo progetto, che si chiama The Price, però vorrei fare anche un'introduzione musicale prima di presentare tutto il progetto, e vorrei che ci parlassi proprio della tua prima uscita ufficiale del progetto. Presentalo tu, Marco, titolo e traduzione dall'inglese italiano, così magari cominciamo a capire di cosa si tratta. Il brano che è uscito si chiama On the Edge of Madness, che significa praticamente sull'orlo della follia, ed è un brano che vede alla voce come ospite Enrico Ruggeri. Sì, che fa parte anche, tra l'altro, anche lui è ospite in questo progetto, collabora in questo progetto, poi che parleremo, no? Sì, ma questo progetto qua, The Price, per me è un po', come dire, un pochino raccogliere i brani che ho scritto negli ultimi anni e farli... fare un bell'album insieme a degli amici e delle persone con cui mi trovo bene, con cui ho fatto delle cose belle in passato, e magari anche con persone con cui avrei voluto collaborare ma che non c'era mai stata l'occasione, quindi tramite The Price sono riuscito a farlo. Certo. Allora io direi di ascoltarci On the Edge of Madness e poi ritorniamo nel tuo progetto musicale, Marco. Ok. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora Marco, eccomi qua. Una bellissima canzone, quindi abbiamo capito il tema, che è un rock veramente vivo. Come sei riuscito a... perché? Come mai hai avvicinato Ruggeri proprio per questa canzone? Beh, perché io qualche anno fa ho prodotto e arrangiato il brano di Enrico Ruggeri per Sanremo, che è Il primo amore non si scorda mai. È arrivato quarto, se non mi sbaglio. Sì, è arrivato quarto. E, avevo già lavorato con lui anche per altri brani prima e poi anche su quel disco, parlando così, mentre si lavorava, parlando di musica in generale, eccetera, praticamente lì mi ha rivelato il fatto che negli anni 80 e 90 lui aveva un concerto molto rock, lui voleva addirittura fare un concerto quasi metal, però tutti gli dicevano che lui con la voce che aveva non poteva cantare quel genere, perché lui aveva la voce bassa, mentre in quel genere andava cantato sempre con le voci molto acute, molto sparate, tipo Robert Plant, Led Zeppelin, in questi modi di cantare così. E io ho detto, ma guarda, in realtà poi negli anni sono uscite tante band, ci sono state tante situazioni in cui questo modo di cantare è stato un pochino sorpassato, ci sono tanti gruppi, tanti artisti che cantano con delle voci basse, profonde, facendogli esempi magari, che ne so, dei Paradise Lost, dei Type Negative, eccetera. E lui, in effetti, lui si diceva sì, in effetti io dal vivo poi ogni tanto facevo cover dei... qualche volta mi è capitato di fare delle cover di Alice Cooper, perché lui è un grande fan di Alice Cooper, eccetera, e in effetti comunque la mia voce ce la fa, quindi mi è dispiaciuto, i tempi avrei voluto fare anche delle cose più ovvie. Ho detto, guarda Enrico, se ti va, io ho fatto sentire questo brano e ho detto, ma se ti va di cantarlo, ho sentito il pezzo e ho detto, assolutamente sì, subito. E a proposito di Sanremo, che parlavamo prima di Ruggeri, tu respiri aria di Sanremo, come la vedi questa manifestazione? È cambiata in positivo? Come la vedi? Ma sai, cambia sempre, ogni anno cambia a seconda del direttore artistico. Cioè, cambia direttore artistico e cambia impostazione. No? Ci sono degli anni molto, molto organizzati, molto belli, dove andava tutto liscio, anni dove dietro le quinte non si capiva un tubo, succedeva di tutto. Devo dire che l'anno scorso è stato un bel festival. Sono d'accordo con te. C'è stata qualità. Sì, c'è stata qualità ed è stata riportata l'attenzione sulla musica e non tanto sullo spettacolo televisivo, sulle stupidaggini, giochini e robe, lasciando la musica a un riempitivo. No? Certo. E questa è una cosa di cui sono contento. Quest'anno c'è questa novità del fatto che i giovani parteciperanno praticamente a una trasmissione a parte e poi solamente chi vince andrà a Sanremo a gareggiare direttamente con i big, praticamente ci sarà una unica categoria. Certo, quindi dà buona opportunità, anche perché da quello che vedo hanno partecipato veramente in tanti di questi giovani. Hanno partecipato in tanti, ce ne sono alcuni a cui ho lavorato anche io, ma non so ancora nulla. Tu sarai presente con qualcosa a Sanremo, come con Ruggeri? Non te lo so ancora dire perché ho lavorato a diversi brani di diversi artisti, però i big non si sa ancora, non si sa ancora la lista, e i giovani neppure, quindi può darsi, penso di sì. Ogni anno, negli ultimi decenni, dal 2004 ne ho saltato solo uno, diciamo, però... non ti so ancora dire. È presto. Chi sarò. Ah. Marco, entriamo nel vivo invece del tuo progetto. Noi abbiamo fatto un po' una presentazione in generale, abbiamo ascoltato anche una tua prima canzone che era tanto per dare anche un po' di far capire cosa suona Marco Barruzzo. Certo. Parliamo di... Tengo a dire una cosa, dimmi, se non ti spiace. Come no. Che su quel brano, sui vari brani, suonano anche musicisti diversi. Su The Age of Madness abbiamo la batteria Ryan Blake Folden, che è il batterista di Lacuna Coil, e al basso c'era Matteo Bassi, che qualcuno si ricorderà come bassista di La Pausini, di 883 all'inizio, di tanti altri, ma anche come cantante solista. Si chiamava una volta NB, aveva fatto un pezzo che era girato un bel po', si chiamava Il Telecomando, un po' di anni fa. Diciamo appunto anche perché su questo progetto tu hai musicisti che non dico ruotano, però... Sì, un po' ruotano, cioè c'è un gruppo fisso che mi segue anche live, che è formato da anche tra l'altro da due musicisti che suonano con me da tanti anni, da Guido Carli, che suonava con me anche nei Kane e che è insieme a me tra l'altro in tour insieme a Rubi Facchinetti alla batteria, e anche da Claudio Sannoner, che è bassista anche lui insieme a me con Rubi Facchinetti. E poi live ci sono anche due cantanti che suonano anche la chitarra, che sono Axel Capurro, ragazzo molto giovane, che ha una sua band che si chiama New Rage, e Amerigo Bello, che è attualmente cantante di Radiofonica. Venendo un po' al tuo progetto, Marco, diciamo non che tu hai lavorato dietro le quinte, tu hai sempre fatto produttore, arrangiatore, eccetera, con la tua chitarra, hai sempre dato il meglio per esaltare la voce di questi cantanti, ma a un certo punto, all'inizio del 2017, correggimi se sbaglio, tu decidi di dare un cambiamento alla tua vita artistica. Ma diciamo che con Giacomo di Kane, con Heavy Metal Kids avevo firmato dei brani, metà dei brani dei Kane li avevo scritti io, quindi diciamo che ho scoperto di essere in grado anche di scrivere delle canzoni, quindi è una cosa che adesso mi dà molta soddisfazione. E quindi questo progetto in pratica in cosa consiste, Marco? Il progetto in pratica consiste nel dare sfogo a quella che può essere la mia creatività facendo la musica che mi piace, ecco, facendola con gli amici. Diciamo che è un pochino anche un modo di, non è un progetto che è solamente legato alla musica, ma anche alla parte visiva, perché all'interno del progetto ci sono, se tu hai, come avrai visto, ci sono ogni brano ha un video, e i video sono molto elaborati, ad esempio il video di, e sono tutti collegati come se fosse una specie di serie televisiva. Certo. Con gli stessi attori che a seconda dell'episodio hanno ruoli diversi. Tra l'altro sono anche usciti i capitoli, non sono consecutivi, quindi il primo che è uscito è un Dieger Madness, ma non è il capitolo 1. man mano che si vedono, che usciranno i video, si capirà di più sempre la storia che c'è dietro. Ecco, Dieger Madness parla praticamente di un video, parla di una storia di stalking, in pratica. Che tu, se non mi sbaglio, hai anche subito un stalking. Io ho anche subito, sì, infatti molte cose che ci sono anche autobiografiche. Io certo. Ho avuto per diversi anni una persona che mi, non ti dava pace. Diceva non mi dava pace, ho dovuto intervenire anche i carabinieri più volte, eccetera. Adesso sembra averla smessa, speriamo che continui a starsi a calma. Ecco, prima di passare alla My Escape, volevo anche dire che sono usciti 3 video che li potete trovare in YouTube, che vi consiglio di andare a vedere. Sono 3 video, certo, di 6 complessivi, se non mi sbaglio, Marco. Per adesso ne abbiamo pensato di farne 6, sì. Di fare, anche perché comunque fare un video è una cosa impegnativa anche a livello economico, quindi non è che posso fare i video di tutti i brani. Però sarebbe bello, mi piacerebbe molto. Nella nostra idea c'è di arrivare a fare proprio un lungometraggio, mettendoli insieme, usando anche le scene più lunghe, dilatate. Vediamo cosa si riesce a fare. E quindi queste faranno comunque parte di un album alla fine, perché il progetto è certo, quello, no? Faranno parte di un album che, te lo dico in anteprima, che presenterò al Legend Club. Se tutto va bene, non ci sono accadimenti strani e imprevedibili, dovrei presentare al Legend Club l'8 dicembre. Certo, ecco, questa è una bella notizia, perché era una cosa che ancora non sapevo, quindi ce l'abbiamo in esclusiva, si può dire, quasi. No? Praticamente sì, dei primi a saperlo. Ufficialmente dichiaro che sto lavorando per, sto chiudendo i mix in questi giorni qua, e dovrei la copertina, cose tutte, per riuscire ad avere il disco pronto e presentarlo al Legend Club di Milano l'8 dicembre. Allora, io presenterei il prossimo brano e poi ritorneremo a parlare del tuo progetto, ok Marco? Sì, ok. Allora ascoltiamoci My Escape di Marco Barusso. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ecco Marco, allora in questa canzone è cambiata anche la voce, che non è più quella di Enrico Ruggeri. Sì, in questo brano qua il cantante è Axel Capurro, ma oltre alla voce sono cambiati anche i musicisti. Abbiamo alla batteria Emiliano Bassi, al basso abbiamo Claudio Sandoner. Ecco, e di questa canzone che ci dici? Questo argomento qua, questa canzone qua praticamente parla di una persona che si decide di abbandonare una situazione e liberarsi e andarsene, e liberarsi da una situazione di coppia, diciamo, che non funziona più. Certo, sono tutti collegati, quindi no? È un concept, sì, sono tutti collegati. Sarà un concept album? Sì, è un concept su un pochino sulle relazioni quelle un po' malate, sulle relazioni quelle portate avanti anche se sarebbero di chiuderle, sulle quelle relazioni dove le persone arrivano a compiere delle cose, a fare mettere in atto dei comportamenti stupidi o addirittura folli. E questo è il motivo per cui vi invito anche di andare a vedere i video, perché mai come in questo caso video e musica vanno proprio a pari passo. Esatto, esattamente. No? Infatti nei video, come tanto ci tengo a dire, che i video sono stati creati da un team di vari professionisti, che sono i framers, che sono praticamente le persone di Francesco Colinelli, Vincenzo Ricchiuto e Davide Benedetti, che hanno proprio avuto insieme a me dato l'impostazione della cosa, l'idea proprio di riportarsi al cinema noir, certo. Quindi di avere delle atmosfere un po' particolari, non necessariamente legate ad oggi, ma comunque un tipo di ripresa legata un po' urbana, legata alla Milano notturna. Sono scene di questo tipo, certo. Abbastanza e poi non tanto legate a... Non sono filmati che spiegano il brano, sono filmati che stanno a sé, cioè hanno, certo, una loro, certo, storia. È una specie di... È un film a puntate, quasi. Probabilmente un film a puntate. Sì, che sì. Uno aspetta la prossima puntata. Esatto, tra l'altro nei vari... gli attori, che sono Antonio Anzellotti Delitto e Marika Cotognini, sono molto bravi, secondo me, a proprio interpretare proprio diverse... Sì, di diverse tipologie di carattere, di diverse tipologie, sì, di personaggi. E chi video magari può sembrare un pazzo, nell'altro video invece no, addirittura nell'ultimo video che è uscito, Antonio in persona proprio due persone differenti. Quando uscirà questo album? Abbiamo detto 8 dicembre, giusto? L'8 dicembre ci sarà l'anteprima e poi uscirà più avanti, in distribuzione sarà un po' più avanti. Credo dal gennaio. Sì. Ho fatto gli accordi con dei distributori, sia per l'estero che per l'Italia. Adesso sto aspettando di chiudere alcune trattative, ma l'uscita prevista è per metà gennaio. Certo. Comunque sarà già disponibile dall'8 dicembre, dovrebbe già essere disponibile su iTunes, su Spotify, su distributori online. Semplicemente il fisico ha bisogno di un pochino più di tempo per muoversi, ecco, certo. Anche perché sei impegnato in mille cose poi alla fine, no? Un po' di cosine da fare nel frattempo, sì. Dopo ne parliamo anche di ieri sera hai fatto il concerto, l'altra sera. Sì, ieri sera eravamo Montato di Castro, domani sera siamo a Legnano. Infatti il mio problema è riuscire a portare avanti il mio progetto, il mio lavoro, ma interfarlo con gli altri lavori, perché per fortuna un po' di lavoro c'è, e quindi come sai, prima viene il dovere, no? Però alla fine il tempo passa, i capelli diventano bianchi per chi ce li ha ancora. Quindi... Siamo sulla stessa strada, a me si vedono un pochino, però sono pochi. Ascolta Marco, ma cioè, come presentazione ufficiale di The Price siete già usciti in qualche live oppure ancora? Sì, abbiamo già fatto dei concerti, abbiamo fatto delle aperture ad altre band, vari singoli, abbiamo fatto alcuni concerti e devo dire che la resa live è molto molto bella, soprattutto per il fatto che, come si dire, a riprodurre tutti i vari brani, perché tra l'altro i brani hanno, ti dicevano, ci sono sul disco 13 cantanti diversi, certo. E quindi c'è bisogno di qualcuno che riesca a cantare in molti diversi, per questo ho due cantanti molto bravi entrambi, che hanno timbri che assolutamente differenti e che riescono a coprire tutto il range necessario. Certo. Praticamente ci troviamo sul palco con tre chitarre e tre voci, io anche canto, cioè, tanto le ambientazioni, cioè la chitarra principale, e loro fanno le chitarre ritmiche e cantano le parti vocali principali. Certo. Avrete una data anche qui in Veneto, ancora presto? Adesso ancora presto, stiamo valutando di organizzare un po' di cose, ma sai com'è, essendoci, come ti dicevo, Sanremo di mezzo, purtroppo nel periodo sanremese io non posso mai fissare cose particolari, anzi anche il tour che sto facendo con Robby Facchinetti probabilmente nel periodo sanremese se usciranno date verrò sostituito da un'altra persona. Certo. Ecco, allora diciamolo, perché abbiamo parlato del tuo concerto di ieri sera, abbiamo parlato di Facchinetti adesso, perché Marco Barusso in questo periodo è impegnato a varie date con Marco. Sì, siamo in giro in tour, stiamo facendo il tour teatrale, domani c'è la terza data al teatro di Legnano, Teatro Galleria, mi sembra che si chiami, e poi abbiamo un po' di concerti sparsi per l'Italia. Ecco, dove possono, chi volesse venire a vedere il vostro concerto, dove trova le date? Ma le date le trovavo su Ticket One, sui siti dove vendono i biglietti, su Viva Ticket, così, oppure sui Facchinetti, su Facebook. Marco, parliamo del tuo ultimo brano, uscito 4-5 giorni fa, se non sbaglio. È uscito in radio il 30 ottobre, mi sembra, non vuol dire stupidaggini, sì, comunque un paio di settimane. Allora, la canzone si chiama Tears Roll Down. Sì, il brano si chiama Tears Roll Down. Perdona il mio inglese che non è perfetto, come... Il brano si chiama Tears Roll Down ed è un brano che ho scritto tanti anni fa insieme a Luca Solbiati, cantante di Zero Positivo. E è un brano che è nato in italiano e che poi abbiamo stranamente al contrario, perché di solito i brani partono in inglese e poi si fa la versione italiana. No, in realtà questo è nato in italiano e poi abbiamo fatto la versione in inglese. E anche questo brano qua parla di un rapporto rotto, di una persona che si trova a interrompere un rapporto che non funziona, che non funziona. La voce rimane, cioè rimane, è quella di Luca Solbiati, perché sono tre voci diverse. Solbiati, sì, tre brani, tre voci diverse. La voce qua è molto bella di Luca Solbiati, e forse questo qua è il brano più pop, più melodico di tutto, ma più melodico forse no, ci sono altri brani molto melodici, però forse il brano con l'arrangiamento più pop rock di tutto l'album, poi ci sono anche altri brani più duri, più rock e tal. E devo dire che Luca ha fatto un gran bel lavoro su questo vocale, su questo pezzo, e al basso abbiamo Marco Fusaro, che ha anche firmato insieme a noi il brano, e abbiamo alla batteria e alla bassi. Allora, e ai cori c'è Amerigo Vitiello, che è lui che ha fatto un po' di cori, un po' di seconde voci. Allora intanto ascoltiamoci Tears Roll Down di Marco Barusso. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20:30 alle 21:45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Marco, ci sei? Eccomi qua. Ecco, allora volutamente in questa ultima canzone io ho lasciato questo colpo di pistola. Infatti dicevo, ma come mai? Sì, no, l'ho voluto lasciare perché è quell'attimo di sospensione che ho avuto quando stavo guardando il video, no? Questa pistola puntata, e ho detto adesso chi dei due ammazza, sparisce il video e si sente un colpo di pistola e lì, esatto. E lì rimango in sospeso. Infatti ti ho anche scritto, ma chi ha ucciso alla fine? Chi lo sa. Chi lo sa, bisogna andare avanti e seguire il prossimo video. Ecco, appunto, è quello, cioè è appuntate, segui un filo. Il prossimo video quando è previsto? Il prossimo video è previsto orientativamente, in realtà il prossimo video è già pronto, perché l'ho fatto. È previsto per l'uscita della distribuzione fisica. Nel momento in cui uscirà il disco in distribuzione fisica usciremo con il video. Ok, quindi va collegato questa volta assieme. Esatto, sì. Ok. Qui da noi ci sono artisti che sono passati, che passeranno, eccetera. Cosa dall'alto della tua esperienza, notevole esperienza, perché sono quanti anni che fai questo mestiere, Marco? Dal 93? cosa potresti dire a questi ragazzi che per continuare a credere nella musica e nel loro talento? Anzi, prima di dare la tua risposta, io vorrei leggere una cosa che tu hai detto, no? Proprio riguardo al tuo progetto The Price. The Price è il fil rouge che collega le canzoni, è la convinzione che nella vita tutto ha un prezzo. Ogni nostra scelta comporta delle conseguenze talvolta imprevedibili, legate alle difficoltà delle relazioni umane, ma anche agli ostacoli oggettivi che si incontrano sul proprio percorso. E chi sceglie di dedicarsi alla musica, lo sa bene, sa che questa scelta, forse più di altre, comporta sacrifici e dedizione estrema. Assolutamente sì. Se si vuole riuscire a combinare qualcosa, io parlo del mio punto di vista, che è legato al vivere di musica, perché al vivere con la musica, poi non necessariamente all'essere artisti famosi, perché da ragazzini tutti vogliono diventare il cantante famoso, ma per me è già un successo grande essere riuscito a fare della musica la mia vita. Però è una cosa che non è, cioè non è che uno va a scuola e poi fa la musica, certo. Funziona così. Cioè, la scuola è, in questo senso qua, è fatta di tante cose, di tante denunce, tante porte in faccia, tanti no, tante delusioni. E solamente chi, soprattutto in campo musicale, solamente chi ha abbastanza passione e dedizione alla cosa può veramente arrivare a combinare qualcosa. Gli altri dico lasciate perdere. Certo. Però la cosa che rincuorante, diciamo, è proprio il fatto che tanti lasciano perdere. Quindi per chi veramente tiene duro, comunque qualcosa ottiene. Vuol dire che sa che ha qualcosa da proporre di importante, no? Sì, poi il fatto è che siamo sempre lì, bisogna essere al posto giusto al momento giusto. Ad esempio, io con The Price so bene che non posso aspettarmi di diventare, che ne so, i nuovi Led Zeppelin, perché certo, non è un periodo storico per questo tipo di musica. Cioè, in questo momento qua cosa va? La musica che va adesso è la trap, il rap e queste cose qui. Come sai bene, in radio il grosso che quelle, le cose che muovono numeri sono queste, non di certo il rock in inglese fatto in Italia. Certo. Quindi fare una cosa del genere e pensare di andare primi in classifica è da pazzi. Io di certo non me lo aspetto, però mi aspetto che il mio progetto, certo, vada avanti, e mi aspetto di fare delle cose belle. Certo. Secondo me la cosa importante è essere onesti verso ciò che si fa e fare ciò che ci piace fare, ciò che ci viene bene. Non dire ok, adesso voglio diventare famoso, quindi mi metto a fare trap. No, perché nel momento in cui lo decidi tu, ci sono già tutti quelli che l'hanno fatto prima, che arrivano prima di te e l'hanno fatto meglio, lo faranno meglio di te. Sarai solamente una copia. Certo. Quindi quello che dico è cercare di tirare fuori ciò che c'è dentro e di fare qualcosa di originale e personale. Certo, anche perché tutto sommato la voglia di nuove proposte c'è, è che il mercato non è più quello di prima, no Marco? Non è che le case discografiche non accettano nulla. No, le case discografiche le cose le ascoltano anche, quello è l'ultimo dei problemi, loro ascoltano tutto. Il problema è che quando devono decidere se tirare fuori i soldi per fare un disco dicono ok, ma questo disco qua chi lo vendo? Certo. Come rientro delle spese per farlo? E a quel punto cosa fanno? Visto che i discografici comunque vogliono continuare ad avere un posto di lavoro, quelle poche risorse che hanno, perché visto che ormai non si vende più un disco, i budget sono diventati qualcosa di veramente ridicolo, le possono incanalare solamente su alcuni progetti. Certo. Fine, poi i soldi sono finiti. Certo. Comunque anche oltre il talento, quindi anche sapersi affiancare a un buon produttore e un arrangiatore a questo punto, no? Questo sì, questa è una cosa importante, ma anche un buon ufficio stampa. Anche, esatto, bravissimo. Cioè, se uno fa un bel pezzo ma non lo sa nessuno e se lo stampa da solo agli amici non serve a niente, meglio che ti tieni i soldi. Cioè, se uno vuole fare un disco deve essere sicuro di poterlo fare arrivare agli altri e di poterlo promuovere in qualche maniera, bello o brutto che sia, e moderno o meno, però sicuramente ci sono dei canali per promuovere un prodotto, ci sono delle nicchie dove alcuni, certo, prodotti vanno, e ad esempio proprio a questo proposito voglio ringraziare l'ufficio stampa che è Susanna Giusto, anticipato e anche chi si è occupato del, certo, della promo radio, che è Filippo Broglia con Rec Media. Certo. E approfitto anche per salutarla, perché ci siamo sentiti parecchie volte. Ciao Susanna e grazie. Ma è un aspetto molto importante che tanti artisti non considerano. Tra l'altro, una cosa che io voglio chiarire è che purtroppo è una grossa illusione degli artisti, di chi vuole fare questo, è l'illusione che arriva l'etichetta, arriva il produttore e io divento famoso. No, non funziona così. Non funziona più così. Funzionava così forse negli anni 70-80, ma non è più così. Ormai le etichette, le major, le multinazionali, eccetera, iniziano ad arrivare a interessarsi di un artista quando questo artista qua ha già fatto dei numeri per conto suo. Certo. Sia con i social, quando ha un certo numero di un seguito, quando ha una sua identità precisa. Certo. Non vengono più creati da nulla gli artisti, non funziona più così, non esiste più che arriva il talent scout, ti sente suonare sulla panchina, certo, e il giorno dopo, certo, tu sei a suonare al Madison Square Garden, non è così. Guarda Marco, ho ancora pochissimi minuti, io dovrei chiederti tantissime cose, anche questo è un argomento veramente interessante, anche perché essendo una trasmissione che si occupa soprattutto di musica emergente, sarebbe bello fare un bel confronto. Magari un giorno, se capiti qui, invito uno o due ragazzi che fanno musica, magari anche della buona musica, per potersi confrontare anche con un produttore e arrangiatore con notevole esperienza. Marco, volevo chiederti, tu ti stai occupando, di cosa ti stai occupando adesso e di cosa ti occuperai qui nel prossimo futuro, nel 2019? Ma adesso mi sto occupando innanzitutto di finire il mio disco, perché sennò non ho nulla da presentare. Certo. E poi sto producendo una band di ragazzi emergenti, ogni tanto ci provo ancora, ci credo ancora, quindi ogni tanto ci provo. I ragazzi si chiamano Cantiere 564, di cui è uscito da poco un brano che hanno scritto insieme a Simone, sì, Cremonini. Che io ti dico la verità, mi ero preparato di mandarlo in onda, però il tempo stringe. Comunque sicuramente avremo modo di parlare, sì, poi di Cantiere. Sto lavorando al nuovo disco degli A Perfect Day, che è una band che ha già fatto, una storica band rock metal italiana, che ha già fatto diversi album e via. Il disco di Cardelli De Carone, c'è il progetto, un nuovo disco di Modà più avanti, e sono tante cose in ballo. Certo, ecco, per quello dicevo che all'inizio ti ho fatto quella presentazione, tu con la tua massima umiltà hai detto fa troppo grande, no, è veramente le collaborazioni, la tua esperienza la metti a disposizione anche di grandi big. È che no, se tu mi dici parla di qualcuno, io non so di chi parlare, tu chiedimi tu quello che vuoi sapere, che facciamo prima. No, ma la prossima volta ne parleremo con più calma, anche perché fa parte di quegli argomenti che ti dicevo prima, che ne avrei tante cose da chiederti, però il tempo è limitato. Invece io, prima di chiudere, vorrei parlare di una cosa bellissima. E se mi permetti farò ascoltare anche il brano in chiusura. Io vorrei parlare di Pensiero 2015, una delle canzoni più belle di Pooh, e che tu sei stato chiamato proprio dai Pooh per concludere la loro avventura di band, di gruppo. Sì, guarda, io avevo già lavorato con Robby Facchinetti riarrangiando un brano che si chiama Ma che vita è la mia, che era stato poi un suo singolo del disco solista, e ci avevamo trovati molto bene. Poi con Robby avevamo lavorato al disco di Fabio Curto, non so se ti ricordi, quel ragazzo che aveva vinto The Voice. Sì. Lì si era rinfrescata la collaborazione, e un giorno ero in studio tranquillo a fare le mie cose e mi ha chiamato Robby dicendomi: ma cos'hai da fare da qui a 2 ore? Sto lavorando, ma dimmi, hai bisogno? Guarda, ce la fai a venire da noi, che siamo in riunione e volevamo parlarti di una cosa. Va bene. Sono arrivato là e ho trovato tutti i Pooh completo, ma tutti, però c'era anche Dorazio. Ho detto: cosa succede? E alla fine niente, praticamente mi hanno affidato la produzione, di l'arrangiamento, la produzione di Pensiero per il ritorno del cinquantennale, per il rilancio in chiave più rock dei loro brani, per rifare alcuni brani datati, rimetterli in pista e dargli una veste più rock. E devo dire, e soprattutto anche col ritorno di Riccardo Fogli nella band. Certo, e devo dire che sul Pensiero praticamente ho avuto carta bianca, quindi niente. E che tra l'altro è un brano molto chitarristico, chi magari ha occasione di ascoltarti, prima ascoltare i tuoi brani e dopo va a sentire questa canzone dei Pooh, sente proprio la tua influenza nelle chitarre. Beh, diciamo che un po' di influenza c'è, cioè, chiaramente le chitarre principali le ha suonate Do di Battaglia. Io ho fatto delle chitarre di acustiche sotto, ho fatto un po' di cose, però chiaramente sono partito rifacendo le parti che avevo fatto io sul provino. Certo. Allora Marco, se a te non dispiace, io vorrei chiudere proprio con questa canzone, visto che ci hai messo... No, mi fa piacere, tra l'altro mi piace molto come è venuta, ecco, quindi sì. Anzi, mi fai anche un ripassino perché lo suono anche domani sera. Sì, guarda, anche perché penso che abbia proprio tutto un altro ritmo, già è bella per se stessa come canzone, però sicuramente dà un altro ritmo, ha un qualcosa di diverso, ecco, non è che va a snaturare la canzone. Questa meravigliosa canzone. Ma quando il brano è bello lo puoi girare esatto. In tutti i modi, devi veramente impegnarti a rovinarlo. Certo. Marco, allora io ti ringrazio te, ringrazio grazie. Susanna, io spero di averti qui presto in Radio Cooperativa per parlare anche di... l'occasione, sì. Sì, e parlare anche di tante altre cose che non siamo riusciti a parlare questa sera. Benissimo. Marco, ti ringrazio, un abbraccio e speriamo di vederci in quel di Verona. Ok? Certamente, grazie a te, grazie all'ascoltatore di Radio Cooperativa, è stato un piacere, veramente. Grazie mille, ciao. Ciao.